Francesca. Vai e dille a tua sorella. 1, 2, 3, aspetta. Vai e dille a tua sorella. Dillo a tua sorella. Dillo a tua sorella. Ti hai fatto molte figure. Il segnale è buono, ma la radio non si capisce molto, 1, 2, 3 stella lo capisco, però la radio è Radio 2, è molto compressa. Buonasera Giovanni. Non sono Giovanni, sono Carlo. Sì. Ah, scusa, non so tu. Sì. Vieni, aiuto. Ho capito chi sei. E avanti. Ti senti sì o no? Ma non si sente bene il tuo mic, non sta andando bene. Prova a fare due rubri. Avanti su 10, chi c'è? Ciao Carlo, buonasera. Ciao, tu lo capivi? No, non lo sento, ma pio. Ma chi è? Non lo so, il segnale qua è forte, Antonio, però non si capisce quello che dice, tipo prima 1, 2, 3 stella, eccetera, però lo tiro fuori anche io molto male. Non lo so. E poi non ho visto il segnale. Parlando. Vieni avanti, ti sei. Mi sentite ora? Mi sentite ora, però la radio è molto compressa, diciamo si capisce a fatica. Il segnale va bene, qua mi arrivi Santiago di Nove, però la radio è, diciamo, ti tiro fuori ma a fatica. Vedi di mettere a posto il microfono. Adesso ho sentito che hai parlato ma non ti ho capito niente. Qua è molto basso, a malapena è 8, a malapena, però non si capisce niente la modulazione. Ora l'ho abbassato, prova adesso. Oh, adesso ti capisci un po' di più. Chi sei, ho detto, no, ancora non ho capito chi sei. Trattore Frank. Trattore Frank, ma sei nuovo? Giovanni, tu lo senti, Frank? Antonio ti ha salutato Giovanni, però è in macchina, eh? Ah, sì, no. Penso che in zona negativa non arriva qua. Magari io gli arrivo lo stesso, capito? Sicuramente in zona negativa. Non c'è poco troppo. Porto Torre, stai modulando, Frank? No. Sì, avanti, va. Sei marramobile, perché ti sento a malapena. Sierra, Managawa. Sierra, non ho capito però da dove. A Mitraghi. Parla e poi non si sente più. Va bene, sì, Antonio, Giovanni ti sente bene. Diciamo, non lo senti tu perché lui è in macchina e magari è in qualche zona un po' bassina e non riesce ad arrivare, ma penso che più zona bassina sia quella radio lì che non esce bene, perché prima quella che Giovanni mi sa che ha in macchina è la radio che aveva in casa e non si sentiva lo stesso bene. Invece in casa adesso sta usando un Alan 7001 e diciamo che ha avuto un miglioramento notevole. Ieri abbiamo parlato, mi arrivava Santiago 9, Radio 5, capito? Però con quella radio in macchina, diciamo che io lo sento più pio e lo tiro fuori, capito? Perché sono in alto. Però, capito, è il solito problema, esce molto bassa di radio quella radio lì, Giovanni, capito? Comunque Antonio ti ha risalutato, ha detto che non ti sente. Ok Carlo, ti saluto. Ok, ciao. Ciao Frank, non ho capito da dove moduli, da Sassari ma quale zona? Che zona sei, l'amico? Cavolo, ce l'è arrivato forte. Il segnale è molto forte, però forse in macchina, non lo so. Senti, c'è una bionda a fianco, un'amica mia, se ci sentiamo. Ciao. Via, va bene, alle prossime. Tu, avevo una bionda a fianco, ha detto. È beato lui. Sentito, sì. Ma bisogna avere la bionda però, secca, che birretta o una bionda vera. davvero. Davvero. Magari alla birretta. Vanni, ci sei ancora? Dove è arrivato? Cosa? Giovanni di Bracamona. Adesso non lo sento neanch'io, oppure sta tornando a casa, non lo so. E tu, Anto, a lavoro, sì? Sì, già. È che lo si intende? Sì, sì, io già avevo capito che eri a lavoro. Niente, io ho fatto la notte, quindi sono smontante, oggi ce l'ho, diciamo, per riposarmi, e domani c'è un altro giorno libero, e poi rientro di pomeriggio. All'aeroporto? Devo misurare, se mi fa bene quel capo di Biato Miso, non mi prendo di là. Ne ho fatto 10,50 m, ne ho. Che a voi, Anto, RG58 o 213? RG58, non è 213. Ma già va bene, tanto se tu hai poca distanza dall'antenna alla radio, già va bene anche RG58, capito? Ma non li voglio pulire, non volevo mettere io perché te lo so io il perché, ma non me la finita di andare. Ok, c'è qualcun altro sul canale 10 che vuole entrare? Mi è sembrato di capire che c'è qualcun altro sotto. Vanni, sei tu? Non si sente più nessuno. Va bene, tanto tu sei in ascolto, io faccio un attimo di bianco che sto finendo una cosa, di ripulire delle mensole, ho lasciato il lavoro a metà, capito? Però già sono in ascolto. Va bene, non preoccupare, dai. Non ti preoccupare. Ah, vabbè, se hai necessità di controllo, chiama già, se ti sento già ti rispondo. Ma penso di finire in 10 minuti, eh. Ok. Là. A proposito, un troppo il vento che ha fatto l'altro giorno, sempre bella. Bella retta. Che è l'antenna, Anto? Sì, là. Là è sempre là, tranquilla. Vabbè, là. Anche questa che ho ricostruito, no? Non è un problema, funziona benissimo. Io sono del parere che finché ci dura l'antenna sul tetto non la devi toccare, finché va bene. Io salirò sul tetto solo quando mi renderò conto che c'è qualcosa che non torna, allora salgo, controllo, vedo, cambio se c'è da cambiare, se no finché va bene la lascio così. Ah, infatti. Lavoro proprio bene, te non ti preoccupare. Sono riuscito a parlare una parola con i primi. Anche ad un uggiamento era. Ok, dai, ti lascio fare il lavoro che stai facendo. Dai. Già rientro subito, 5-10 minuti, poi rientro. Ciao Antonio, se mi ascolti. E chi sei? Ah no, arrivo anche lì, porca paletta. Ciao, è Bettino. Così, dai. Sto chiudendo qua che stavo imbustando e quindi avevo la radio accesa. Okay, ma dove sei? Ah, sei là, dove fai quella roba là? Sì, tu. Bene, sta arrivando. Ah, sei io? Sì, cioè, a picchi di otto, da funziona bene, con una gran play. Arrivi anche qua, bene, ti arrivo io lì. Sì, mezzo guarneme, ma ne scatto io di fuori, dai. Santiago 3, ma questo è uno smitter a Lavaro, quindi non ti preoccupare. Vabbè, però arrivano a te, sì. E non sono vicino da te, no, tu sei molto lontano da me. Andavi, va bene tu, ti lascio fare, dai, che anch'io qua ho finito e chiudo tutto e vado via. Vado magari nel QTH, se ne ho voglia, accendo là. Se più tardi proviamo da casa tua a vedere, che lì è più tranquilla la cosa. Però non è male, dai. Ciao, ti. Ciao, ci sentiamo, ciao. Attento Antonio, mi ascolti, il cambio. Puglia, avanti. Ciao ancora, buona serata. Chi era quel ragazzo di 4 ore di prima? Siamo riusciti a parlarci? No, ma fra, ma tu sei? Vanni e Antonio, da Platamona. Ah, capo, non ti avrei Maria Franco, Maria. Ma dove sei adesso, a casa? Dove Vanni? Antonio, sta sera si sente molto male, male. Non si fa nulla, no? Qua. A casa è un conto, qua è un altro conto, qua c'è un baracchetto piccolino, cosa... non ne ho fatte, e se no ti ha messo di fatto sentire, non ti preoccupare. Hola. Chi è? Io sono, buonasera. Ciao, buonasera. Sei qua, va? Attento Gianni, attento Gianni, mi ascolti, cambio. Tutto bene già, com'è? Tutto bene, tutto bene. Facciamo anche il video, domani. Andiamo avanti. Mamma mia, perché stai uscendo così? Bene, ti arrivo Gianni. Sì, ma ti sento un po' strano, ti sento, ma col microfono qualcosa c'ha. Qualche netto. Che ho sentito molto meglio, ti ho sentito molto meglio già. Stava bene la resta, come va? Decisamente meglio, continua. Lascio la pulsante fissa un attimo, va bene. Qualcosa di strano, cioè. Ma che cosa? Non mi piace la modulazione, sento quella modulazione strana. Ma com'è? Se vuoi ti registro te la faccio sentire. Fa un passaggio già, che te la faccio sentire. Ehi, attenzione ai canali 10, poco tecniche che è trasmissione, cambio. Mandamela questa prova. Prova a ascoltarti. A vedere. No, non mi piace questa cosa. O che abbia la batteria a scarica, cosa ne so. No. Vedi, adesso te l'ha fatto accentuato proprio. Non lo so perché sto facendo così. Attenzione canale 10. Attenzione canale 10, cambio. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3. Hola, 1, 2, 3. Hola, hola, 1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola, hola, hola, hola, hola. Antonio, ci sei? Antonio? Bombolino, bamboletto. Giovanni, ci sei? Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, 1, 2, 3, hola, 1, 2, 3. Hola, hola, hola, hola, 1, 2, 3. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. No va bene adesso. Hola, hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Forse la batteria però, questo qui è il tablet, ma forse la batteria. Questo sei tu Gianni. Sì, questo qua è il tablet di Super Static. Io sono già pompa, questo è per il microfono. Sì, ma con l'altro stavi uscendo molto male, innesco, si sentiva di tutto di più. Probabilmente era la batteria. Probabile. Sentirà più dito. Verrai rotetta a misurarla. A vedere, boh, magari è molto giù, Fatto, devo stare attento con quel portatile là. Due volte mi ha crepato le batterie. Vai in ora a mare, quando siccome l'attacco con l'alimentatore. fatto? L'ho attaccato all'alimentazione che se gli ha fatto le batterie, 8 euro di batterie, la matta ne varia. Allora sicuramente non esclude le batterie con l'attacco all'alimentatore. Bisogna toglierle, quando tu parli con la corrente bisogna togliere, perché se no si fottono. La matta ne esce, la che mi guasta le batterie. Per la seconda volta, mai più. Io se non sbaglio l'avevo cambiata la batteria. Già lo so già, però mi ha fregato. Cioè praticamente già attaccato il capo quello sottostrano, capito, in notazione per l'antenna. Ed è attaccato questo, la prima volta, con tutte le batterie. La seconda volta me l'ha cribato, Zorra. La prossima non mi creba più, figlio, mi tiro. E dire la batteria e lui non fa più. Comunque saluto Carlo, dai, avanti Carlo. Carlo. E deve essere impegnato, dai, lo chiamiamo dopo. Giovanni, ci sei? Posso fare una prova a tutto, della lanterna e metterla lì la batteria. Posso fare questa prova qua. Mi sa carica, sì. Vabbè, se sta andando bene vuol dire che carica. Ma prova a vedere, ossia... se c'è proprio la base, andiamo a vedere, dai. Vabbè, dai, lo faccio l'altro momento, non la giugare la base, sono bucato, mi sto rilassando per 5 minuti perché sono dalle 6 di mattina in piedi oggi. Non sei più abituato, no, a stare in giro. Ho dovuto portare la macchina anche a fare la revisione, insomma, avevo un po' di roba da fare, mi sono stato presto. Ho fatto bene. Ho cominciato a fare un WRM, un bel altro, poco fare a basso, basso, basso. Programmare a tutti, fare il WRM. No, qua non ce l'hai quel re, è proprio zero. Appena appena più di zero, è quasi uno, nemmeno uno. Che il QRM qua è basso, non è nemmeno uno. Ma qua ce l'ho altro per sé, qualcosa qui, no? E magari qualche macchinario, qualche cosa attaccata. Sì, sì, non è tanto rubato. Lo fa, sì. Lo fa quando praticamente c'è qualcosa, qualche apparecchiatura, qualche cosa attaccata. Ma non è roba di nocchie, no? Roba di qua. E qua c'è l'aerosol, tutte queste cose qua fanno quel rem, neanche l'aerosol. Io mi ricordo che c'era Giuseppe che stava impartendo per questo rumore e poi era uno che usava questo aerosol. Aerosol, addirittura. E allora, cosa, la macchinetta dell'aerosol? Ma non capiva nulla, gli faceva questo rumore assordante. Sì, rientrava, allora che cosa mette dentro, chi c'ho già sempre avuto di vizio, questo apparecchio. E quando passano le moto, entra quel rumore lì, niente. Beh, quello lì lo fa, sì. Fa. Specie nei Midland lo fa quello lì. E in chi ce l'ha sempre fatta? In macchina su Bugliadini. E lo fa. Il rumore delle moto disturba molto, eh. Vediamo un po' se Carlo c'è. Carlo? Sì Gianni, ho finito adesso, oggi sono crepato, ho fatto tante di quelle cose che tu neanche lo immagini. Adesso vai benissimo, è già, perché prima ti sentivo, stavo facendo, però non potevo rispondere. E niente, era il microfono, adesso con questo va benissimo. Praticamente deve esserci la batteria a scarica, non è niente. La devo cambiare. L'altro giorno ne ho adattato una che ci avevo, che era, non era carica del tutto, e praticamente quel microfono quando è sottoalimentato fa quel lavoro lì. E vabbè, questo qui è il Turner, nuovissimo, bello, lucido e fiammante, non c'ha manco un graffio. Ho capito, allora usa questo, già è buono. Io ho smontato stamattina un letto a castello, ho portato portato giù in garage, portati giù i materassi, poi ho ripiazzato un letto, messo il materasso e stavo facendo, disfando mensole, ripiazzando, però tutto il giorno così. Adesso ho finito, meno male, e mi riposo un attimino, me ne sto in radio a fare quattro chiacchiere. Come mai la camera nuova di tuo figlio sta? No, da mio figlio, perché lui in camera aveva un letto a castello, l'avevamo preso perché ogni tanto avevamo ospiti eccetera, e l'unica soluzione era quella, capito, perché non era molto grande, però adesso con quei materassi che si usano adesso, autogonfiabili, piazzi, e quando non ti serve lo sgonfi e lo metti via e buonanotte, quando capita qualche ospite uno o due giorni ci aggiustiamo così, capito? Se no c'è il divano letto nel salone, buonanotte. Vabbè, già è comodo, là. Già è comodo quello rigonfiabile. Vabbè, io gli faccio una camera libera a casa, una camera tutta libera, quindi se vengono ospiti già c'è il posto. Ma comunque anche io stamattina mi sono alzato alle 6, dovevo portare anche la macchina a fare la revisione, gli ho portato la macchina, poi me ne sono andato a fare una passeggiata mentre la facevano, e me ne sono salito sì a Piazza d'Italia, abbiamo fatto tutto via Pascoli, tutto via Umberto, anzi no, sono passato dal corso, sono passato da via Rosello dal corso, ero tanto tempo che non me la facevo a piedi e mi è piaciuto comunque perché è da molto che ho cambiato. E ogni tanto già è piacevole a fare quattro passi. Io spesso mi uscivo in bici in città, così è un bici da passeggio che ha la pedalata assistita. Come è iniziato l'inverno, però col freddo, l'ho messa giù in garage, non l'ho più toccata. Adesso come se fa bel tempo già me ne riesco. Già quella già è comoda, ti fa anche lavorare di gambe, però non sforzi più di tanto. Come anche Antonio ce l'ha quella lì. Ma figata, perché mi giro tutta la città con quella bicicletta e non mi stanco, capito? Lo so, ma devi pedalare solo in salita e basta, così. Questa bicicletta. Adesso non la sto utilizzando. Però già adesso la rimetto in moto. No, non mi sto facendo vedere in giro perché c'è una persona che mi sta. È una persona seria, cosa, però mi stava un po' rompendo le scatole, e carica batterie, quello e quell'altro. Allora per un po' di tempo non mi diceva, l'ho portata a casa di mio padre, la sto usando mio padre. Per il momento non mi sto facendo vedere, non me la butti nulla, però per non farla stressarmi, cosa. Poi anche non la sto usando perché è troppo freddo. Vabbè, l'altro giorno già ce la vivi, l'altro giorno quando sei venuta a casa ce la vivi. Vabbè, già sono comode, molto costano anche quelle biciclette. Comunque sa di un po' di dinero in busciacca, però già, io l'ho pagata la metà, era il mio zio, era. Già lo conosci tu, cara, il terrorico già lo conosci. Cioè, alla fine no, non ho pagato quasi niente, dai. Perché ho fatto un accordo con zia. Ho capito. Va bene, dai. No, io pensavo l'avessi presa al moto. Lui mi ha detto 50 euro. Già è andato bene, dai, è andato bene. Penso che è costretto alle 3,50. Sì. Ma aspetta, no, 200 euro la stiamo vendendo. Era voi. Te la stai vendendo? Sì. Perché? Non la mia, no, l'altra. Un'altra che ne ho, però se ne fate in un'altra. Ma la sta vendendo chi? Sta vendendo Babbo, ma l'ha incaricato a me. Ho capito. No, vabbè, io non ho nemmeno posso permetterlo. Avessi avuto il garage, ma c'è il posto macchina. Dove me la metti? Vabbè, lo sto dicendo. Bianca, già andava bene, io l'ho provata, già andava bene. Va bene, dai, adesso vi lascio io, dai, ci sentiamo, ci vado a fare una cosa. Ciao, continuate voi. Giovanni, ci sei? sentiamo più tardi. Ciao ciao. Ehi, ciao Antonio, ci sentiamo. Avanti Carlo, poi salutiamo. Ciao Antonio, alle prossime, già ci sentiamo. Anti Giovanni, ci sei? Oh, l'ho sentito prima anche io un attimo e poi non l'ho più sentito. Già. Non sta bene no Giovanni, quindi magari non ha voglia di parlare, no? Ho capito. Ho capito, prima più presto, un'oretta fa, era in macchina ma arrivava basso basso, però secondo me ha problemi quella radio che usa in macchina, che prima la usava in casa, invece adesso in casa Giovanni sta usando un Alan 7001, mi ha detto, che è un 120 canale, c'è anche la banda laterale, e con quello ha guadagnato sia di segnale anche la radio, perché io lo sento benissimo qua, Santiago 9, radio 5 adesso. Quindi il problema doveva essere la radio che usava prima, e se lui la sta usando in macchina, prima non so, gliel'ho detto, ma non so se mi ha sentito, ha lo stesso problema, capito, non esce bene quella radio. Ho capito, vabbè, perché bisogna prendere radio serie, ci vuole una radio serie per la macchina, se tu hai una radio come si deve, non hai bisogno né di lineare né di nulla. Lo so, lo so. Niente, io la bicicletta, tornando al discorso di prima di Antonio, allora ne avevo un paio di biciclette di miei figli, però erano biciclette normali da passeggio e non le stavano più usando. Allora cosa le ho fatto? Le ho messe su subito, me le sono vendute a una signora di Alghero, tutte e due, per 150 euro ognuna. Ne ho aggiunto altre 300 e praticamente mi sono comprato la bicicletta elettrica con la pedalata assistita, e l'ho presa, era in offerta da Decathlon quando l'ho presa io, però ho visto che adesso i prezzi sono aumentati notevolmente, adesso una bicicletta standard con pedalata assistita la trovi a 5-600, quelle normali, quella che ho io che è un po' più elaboratina addirittura costa intorno agli 870 adesso, costano un botto, però guarda, sono una comodità, io molte volte devo fare qualche commissione al centro, vado, vengo, eccetera, neanche sudi, capito? Però puoi pedalare, puoi escludere la pedalata assistita e pedala come bicicletta normale, quando poi trovi le salite, allora lì inserisci l'elettrico e vai tranquillo, capito? Già. Ma poi queste biciclette vanno caricate, ma se uno c'è il garage c'ha anche il piatto elettrico in garage, l'attacca in garage e via, ma uno che non c'è il garage dove l'attacca la bicicletta con la pedalata assistita? Io c'ho il posto macchina, garage non ne ho. Vabbè, quello, la batteria la puoi anche sfilare, si sfila la batteria e la puoi caricare dove vuoi, io ho il garage, la verità neanche la sfilo, quando è da caricare che la infilo dentro il garage, c'è il caricabatterie, lì la metto in carica un paio d'ore, la ricarica e ti rimane pronta per l'indomani, capito? Ci faccio 75-85 km con una batteria del genere. Ho capito, ma io sapevo che le batterie si autoricaricavano quando pedalavi, confermi oppure sto sbagliando io? No, queste qua, questa che io no, poi non so se ci sono delle versioni di quel tipo lì, immagino di sì, immagino, perché la cosa è possibile, capito? Però la maggior parte delle biciclette con pedalata assistita hanno la batteria che si ricarica, però non è che finisce, io per esempio esco la mattina per dire alle 7, no, quando uscivo con la bici, rientravo alle 9, uscivo col 100% di carica, rientravo che avevo l'80% ancora, quindi ti dura anche 2-3 giorni una carica, capito? Ah, hai capito. Io infatti per fare le commissioni così in città, fare i documenti, tutto che bisogna stare attenti che non te l'attaccano. Esatto, infatti io già uso quei lucchetti, capito, l'attacchi al palo e ovviamente gli dai anche un'occhiata, perché quelle lì te le fregano come niente se le vedono. Chi è che sta fischiando? Avanti! Se non c'è propagazione, Boh, io non ho sentito nessuno, forse perché stavo parlando. Zitto, se si sentono, io ho sentito gente. Attenzione, sul canale 10 impegnato, chi è? quale sei detto che stavo fischiando? Mi sente, avevo lo squelci alto, quindi adesso ho abbassato un pochettino e sì, sento qualcosina ma non si capisce. Capaga, poi si è detto che ha chiamato Tore, fischiava. Vabbè, per forse pensava che era libero il canale. E così. E quindi niente. Sì, sono delle belle invenzioni, perché non devi mettere benzina, non devi rifornirle, ma assicurazione ci vuole per queste biciclette o no? No, niente. È come una bicicletta normale, capito? Non ci vuole niente, ci mancherebbe, pure mettono la tassa su quello, allora abbiamo finito. Niente, adesso nel nostro condominio, se va in porto la cosa della questione del 110%, praticamente sul tetto mettono dei pannelli solari che producono energia e giù nel cortile fanno l'attacco per caricare eventuali macchine elettriche dei condomini, capito? Energia rinnovabile gratis. Ho capito, è buono sapersi. Ma lui dove lavoravo io, nel garage, dove mettono le macchine, praticamente c'erano tre o quattro colonnine, adesso non ricordo, tre forse. E quando tu andavi a fare la spesa con un multinedo, no, andavi giù nel garage, attaccavi la macchina, quando finivi di fare la spesa la macchina era già carica. Lo credo. Sì, se praticamente ti serve solo la macchina per far commissioni in città, eccetera, la macchina elettrica non è una cattiva, diciamo, idea, capito? Ovviamente nei tragitti più lunghi con l'elettrico sei limitato col chilometraggio, capito? Perché ancora le stazioni di ricarica sono poche, non è dappertutto che ci sono, per cui non ti puoi, diciamo, incamminare a fare una gita, che ne so, no? Devi andare a Nuoro per esempio, e non so l'autonomia com'è, capito? E se da Sassari a Nuoro sei costretto a fermarti, quindi perdere tempo per ricaricare ancora la cosa, però nelle brevi distanze, così in città magari la macchina elettrica già va bene, così come la bici, capito? Io non ho molta fiducia a queste macchine elettriche, comunque diciamo che ci sono anche quelle ibride, quelle che vanno sia benzina che elettriche. E come finisce? L'elettricità vai a benzina, per cui hai sempre a portata di mano, se battuio. Ma non capisco, due motori dovrebbero avere. Il motore è lo stesso, solo che ha una sezione separata, una è ovviamente c'è la dedicata alla carburazione, eccetera, e l'altra è elettrica che esclude l'altra, capito? Penso ci sia qualche centralina che automaticamente, quando tu premi qualcosa, ti fa passare dall'elettrico oppure al motore classico alimentato a benzina. È come la mia che va GPL benzina, c'è il tasto, premi e va a benzina, premi e va a GPL. Esatto, qualcosa del genere sarà anche per l'elettrico, capito? Quello già è facile, diciamo, fare quei sistemi sulle auto, non c'è il problema dello spazio perché le macchine già sono grandi, eccetera, e quindi si possono fare tranquillamente. Bene, Meda, non c'è nessun altro, ovvero già c'è Antonio che ha avuto da fare, è uscito, prima ho sentito Giovanni, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti sul 10. C'erano in tanti che ascoltano, ma che vuole entrare non c'è nessuno. Quanto ti stavo dicendo, non mi danno molto affidamento, perché con l'umidità, con la pioggia, queste macchine qua, le cose elettriche non sai come sono, ma sempre un po' d'acqua. Quello già è vero, quello è vero, devi stare attento un po' con l'acqua, e l'elettrico non ci va tanto d'accordo, basta un niente che ti manda in cortocircuito tutto, capito? E appunto, magari le faranno, le faranno in modo che non entri, però l'acqua ha sempre rovinato queste cose elettriche, e anche le macchine normali ti mandano in tilt i fari, ti mandano in tilt, sai com'è quando entra acqua. E vabbè, comunque, è un'innovazione, diciamo, anche per evitare l'inquinamento, quindi vediamo un po' come va. Speriamo bene, speriamo che riabbassi la benzina e il gasolio, perché se continuiamo così siamo arrivati già a 2 euro e non si sa a quanto finirà poi. Sì, abbassa. Se continua questa guerra mi sa che c'è poco da abbassare. Vabbè, dice che è andato Di Maio in altri paesi e si sono messi d'accordo per farla arrivare in altri paesi, ma intanto dalla Russia ce lo fornivano questa roba qua, grano, tutta questa roba e anche petrolio, però adesso è un po' un casino, vediamo un po', speriamo che si mettano d'accordo e che la finiscano di fare queste stragi. Oiaia, e l'altro giorno lo stesso stavamo parlando di queste cose. Praticamente in Sardegna i Moratti, tramite la Saras, no, che è una loro azienda che in Sardegna diciamo ha l'industria eccetera, e un paio d'anni fa avevano fatto delle ricerche in provincia di Oristano, tra Arborea diciamo e Oristano, ed è il risultato che diciamo dal sottosuolo fuoriesce gas naturale. Hanno fatto queste ricerche con macchinari speciali eccetera. Il problema è che i verdi, gli ambientalisti si sono subito opposti, che non bisognava toccare le caratteristiche del terreno, che tanto il metano sarebbe finito subito seppure c'era qualcosa. Morale della favola, in base a diciamo i rilievi che hanno fatto, la Sardegna, se dovesse estrarre, farebbe praticamente, avrebbe gas per il proprio fabbisogno e potrebbe esportarne per un'altra regione pure, oppure tenerselo come riserva, capito? Anziché pensare di riattivare le centrali a carbone, che poi oltretutto il carbone non è che usiamo il carbone della Sardegna, ma lo importiamo da paesi come l'Africa, la Russia, l'Australia, capito? Quindi alla fine dobbiamo sempre importare. Quando io dico una cosa, abbiamo scavato con le miniere, perché non fare due buchi e vedere se c'è il gas naturale e così ce lo prendiamo, capito? Beh, almeno evitiamo di spendere questi soldi che stiamo spendendo in più, perché stiamo arrivando proprio al culmine, ma non solo il gas, non si può più fare la spesa, se va a fare la spesa tutto è triplicato, duplicato. Ho trovato i pomodori con i ciliegi da 5 euro, una vergogna, costavano 1,20 euro, 1,30 euro, quando costavano molto, erano 1,50 euro proprio, però non più di tanto, adesso 5 euro pure sono saliti. Parlando proprio di pomodori, no, tu stai parlando di pomodori ciliegini, io ti parlo di passata di pomodoro. La Casar è un'azienda sarda, no, produce qua, fabbrica qua, vende qua e vende nel territorio nazionale. Ecco, la passata di pomodoro Casar, io mi ricordo sino a qualche mese fa, a volte la trovavo in offerta, un litro di passata di pomodoro in brick lo pagavo meno di 1,87-1,85 euro in offerta, quando costava molto costava 90, 1,40 euro, 1,40 euro adesso costa. Sì, lo so. Vabbè, io uso Antonella, a casa non le uso, ma Antonella mi piacciono di più, però anche gli Antonella sono aumentati, ma un po' tutto è aumentato, anche la revisione della macchina è aumentata. È un casino, sta diventando la pasta idem, pasta la prima, la Barilla un esempio, no, una delle più vendute, la trovavi in offerta 85 84, anche 70, adesso è praticamente a 1 euro, capito? Perché comunque la Barilla importa tutto, la maggior parte del grano lo importava dall'Ucraina, capito? E allora sì, infatti siamo anche noi, diciamo che ci rimettiamo, perché con questa guerra non ci stanno più portando grano e tutta questa roba qua, adesso dobbiamo arrangiarci da altre parti, perché sennò sale alle stelle. E speriamo di produrlo di nuovo noi, come si faceva una volta, capito? Ci sono le campagne abbandonate, che non sia una nuova forma anche per trovare lavoro per molti giovani. Lo sai cosa c'è? Che una cosa te la trovavi pronta e andava meglio così, e non stavi a lavorarla, eccetera, capito? E la mandrovia pure. La roba pronta ma te la fanno pagare, capito? E non sai neanche quello che c'è sotto. Se te la produci tu invece sai come è prodotta, sai cosa, dove viene, insomma, coltivata, e te ne sei anche più tranquillo da quel punto di vista. Anche nelle macellerie, per dire, la carne prima arrivava a mezzene, maiale tagliato in due, bue tagliato in due, adesso arriva sotto vuoto, a pezzi, e loro lavorano sotto vuoto. Poi, allora, a proposito del maiale, nel resto d'Italia, adesso che noi non abbiamo più la peste suina africana, che l'abbiamo avuta per oltre 30 anni in Sardegna, noi adesso siamo a posto come regione Sardegna, quindi possiamo anche esportare la carne di maiale fuori dal territorio sardo, mentre prima non era possibile. Invece adesso, guarda caso, ci sono casi di peste suina in tutto il territorio nazionale, capito? Macello, ma io, guarda, siccome molte volte mi è capitato di andare a Porto Torres a pescare dal molo lì, c'era parcheggiato un camion tutto pieno di maiali che veniva dalla Francia, c'erano maiali vivi, magari poi quelli lì li vendono come roba sarda, capito? Li macellano e li vendono come roba sarda. Allora, non sai come li hanno allevati, capito? Invece qua addirittura ce li abbiamo allo stato brado noi maiali. Vabbè, certo. È tutto macello, non sai più che cosa mangi, cosa ti metti in bocca, capito? Non sai più cosa ti metti in bocca. Purtroppo anche questi pesci che allevano in vasconi e cose, gli danno questi mangimi che sono farine animali, tutta roba così, e fa malissimo, per carità. Sì, no, quello è vero. Io una ventina d'anni fa lavoravo a Olbia, prima, tra Olbia e Golfo Aranci, no? Lavoravo con l'autorità portuale prima, e mi ricordo avevamo la sicurezza di Golfo Aranci, e a Golfo Aranci c'è un allevamento di orate, c'è una cooperativa, c'era, adesso non so se ci sia, immagino di sì, e praticamente ci chiedevano il permesso per andare col barchino a portare il mangime, e caricavano questo barchino con sacconi di mangime che poi portavano lì dove c'era a largo l'allevamento, e li svuotavano sull'allevamento, capito? Ed era tutta roba di farinacce, tutto mischiato, chissà dove la portavano, capito? Quindi questi pesci vengono allevati con questi mangimi qua, non sai neanche, no, lo chiedevi a loro e non sapevano dirti da dove proveniva, cosa c'era, cosa non c'era, no, ma già è tutto controllato, già è tutta roba sana, eccetera, ma non era da credere, capito? Sì, beh, loro lo sanno, non lo dicono perché non gli conviene dirlo, e se no si perde la vendita. Ma io ho un amico che praticamente c'è l'allevamento di stintino, ma ha detto non prendere mai orate da lì, per carità, perché quello che hanno da mangiare è schifoso. Lo so, purtroppo i pesci mangiano di tutto, capito? Quindi se tu gli dai porcherie mangiano porcherie, il problema è quello. Invece se tu gli dai mangimi e cose sane, allora può essere anche valido l'allevamento così in mare dei pesci. Però non c'è da fidarsi, in questi giorni soprattutto tutti ne approfittano, con la scusa che c'è la crisi per la guerra, sta aumentando tutto, qualsiasi cosa sta aumentando, non sappiamo più dove arriveremo. Arrivi poi al punto che con lo stipendio non ce la fai più, non ce la fai più alla fine, perché se aumenta gli stipendi rimangono sempre gli stessi, alla fine poi non ce la fai più. Ma tu che cosa fai esattamente all'aeroporto? Cosa sei? Della vigilanza? Facciamo siamo dipendenti dalla società di gestione, facciamo tutti i controlli di sicurezza, i controlli dei passeggeri, del bagaglio a mano, il bagaglio da stiva, tutto quello che concerne la sicurezza, la videosorveglianza, il controllo della perimetrale, facciamo tutto noi. E io ho un amico a Roma che fa lo stesso lavoro, tuo, sempre all'aeroporto di Roma, infatti è assunto proprio dall'aeroporto di Roma. E adesso l'hanno messo faceva, vabbè, ha cominciato, poveraccio, che scarica vari aerei, le valigie con il capo in terra, e scendeva le valigie così da sotto la pancia dell'aereo, diciamo. Poi ha fatto, diciamo, la guardia, diciamo, la sorveglianza, controllavano i bagagli, eccetera. E adesso l'hanno messo su dove ci sono proprio tutte i monitor dove controllano la roba. Ho capito. Noi facciamo tutto ciò che concerne la sicurezza, capito, dell'aeroporto, dal controllo interno al controllo esterno, anche delle recinzioni, perimetro, tutto. Ho capito, dai. Ma quindi appartenete proprio all'aeroporto oppure a una ditta esterna? No, Alghero ha tutti i dipendenti suoi, non ha ditte esterne. L'unica ditta esterna è l'impresa di pulizia, poi per il resto è tutto Sogeal. Ah, ho capito. E vabbè. Ma si fa quel lavoro lì. Ha fatto, diciamo, passi da gigante, perché ha cominciato così, appunto, scaricava gli aerei dalla pancia, lui con il carto scaricava i bagagli. Immaginate che lavoraccio è. Lo so, già li vedo io i bagaggisti, il lavoro che fanno d'estate, si prendono un caldo. Tu immaginati le piste arroventate dal sole, più il caldo dei motori, le stive che sono roventi, tu devi entrare dentro a svuotare, capito? Quindi alla fine ti prendi il caldo e d'inverno ti prendi il freddo. Sì, vabbè, purtroppo ogni lavoro c'è il suo pro e il suo contro. Anche io quando lavoravo all'aperto, se pioveva prendevo la pioggia, se faceva bella giornata mi prendevo la bella giornata, però intanto se faceva brutto tempo mi bagnavo tutto. Già lo credo, loro quando piove, tira vento, già sono equipaggiati, hanno tutto, impermeabili, dalla testa ai piedi, sono proprio isolati, eccetera, però è un lavoraccio, il lavoro esterno è, per carità. Noi siamo più fortunati perché sì, abbiamo anche noi lavori esterni, per esempio noi prendiamo anche le armi, capito, da e per l'aeromobile, i valori, tutta quella cosa la prendiamo noi, capito, quindi come arriva l'aereo, aprono la stiva e non possono aprire la stiva se prima non siamo noi lì, capito? Perché la prima cosa che scendono sono quelle cose lì, poi noi le portiamo all'ufficio di polizia, la polizia le riconsegna alle persone, capito, che trasportano queste cose. Però noi usciamo un attimo, però molte volte ti capita l'inverno di dover fare una scorta per un'arma e sta diluviando e tu non sai l'acqua che tira quando sei là all'aeroporto col maestrale, capito? Ti bagna dalla testa ai piedi. Già lo so, perché una volta me lo ricordo che c'era un acquazzone quando siamo arrivati, che giornata brutta, che viaggio brutto che abbiamo fatto, l'aereo stava per atterrare, ha detto di prepararci come si fa, accendere le luci di cortesia, eccetera, eccetera, poi l'aereo risalito in alto e cominciava a girare a vuoto, non atterremo più, invece poi è atterrato, ma malamente, ci ha dato un colpo quando ha atterrato. Di solito gli fanno l'applauso, questo qui cavolo come atterrato, ci siamo tutti fatti addosso, abbiamo sbarrato gli occhi, ha dato un colpo che ci è arrivato il cuore in gola. Lo so, scossoni già se ne prendono purtroppo, e io viaggi ne ho fatto e sono arrivato sino all'Australia, 6 anni fa sono andato in Australia e quindi ho fatto Alghero, Roma, Londra, Londra, Singapore, Singapore, Sydney, e poi ho preso anche i voli interni perché l'Australia è grande, per cui da Sydney ti devi trasferire per dire nel Queensland e sono o 7-8 ore di treno oppure fai un'ora di volo, e quindi ho provato anche le compagnie soprattutto interne australiane, dove là il clima è pazzo e tu dovevi vedere gli scossoni che prendeva l'aereo, eravamo tutti col cuore in gola, capito? Ci credo. Ma voi avete sconti sui viaggi, vero? Ma solo sulle tratte nazionali, capito? Per le internazionali no. Ah, capito. Ma so che anche in alberghi, perché Massimiliano quando è venuto qua aveva uno sconto anche in albergo. Sì, sì, qualche sconticino, ci sono praticamente degli alberghi che inviano magari alle società di gestione, guarda se hai dipendenti che viaggiano, mandali da noi, facciamo uno sconto, basta presentare il tesserino aeroportuale, ci fanno il 10, 20%, 30% di sconto a volte, non è sempre così, però a volte ci sono gli sconti e ne approfitti. Certo che sì, e anche quest'amico mio viaggiava molto, andava nelle isole delle Canarie, tutti questi posti qua è andato, Sharm el Sheikh, tutti questi posti qua li ha girati tutti, poi aveva la passione, cioè ha tuttora la passione dell'immersione, non pesca subacquea, se si immerge. Addirittura ci siamo andati filmati che c'erano gli squali sotto e lui sopra, gli hanno fatto il filmato, un cameraman che c'era, no? Che pagava e ti dava la cassetta. E ci avevamo dato la cassetta, proprio allora c'erano le cassette, le VHS, ci avevamo dato la cassetta, proprio c'era lo squalo sotto e lui sopra. Lo so, io quando sono andato in Australia addirittura c'era la possibilità di andare sulla barriera corallina australiana, che è quella più grande, no, al mondo, e lì puoi vedere di tutto, e c'era anche la questione delle immersioni, che io l'avrei anche potuta fare, solo che ero con la famiglia e gli altri non ne avevano l'intenzione, allora ci siamo presi una di quelle barche grandi, no, e sono delle motonavi, ti portano a largo e praticamente ti passano le balene, le puoi anche accarezzare, ti passano vicine le megattere. Cavolo, no, io ero andato ad Alghero sul Nautilus, non so se tu l'hai conosciuto, siamo andati sul Nautilus, che era un'imbarcazione che aveva il fondo trasparente, tu scendevi giù e sembravi immerso nell'acqua, aveva questi fari potentissimi, quando andava di notte si vedevano anche i plancton, tutto quanto, certe orate, le gnacchere, di tutto di più. Sì, ce l'hanno avuto quello, adesso non so se l'hanno dismesso, ma sino a una decina d'anni fa mi sa che c'era ancora quel Nautilus. No, non c'è più, no, non c'è più. No, l'hanno venduto forse, non lo so. E guarda che facevano i soldi, era bellissimo. Io mi ricordo che avevo fatto, mi pare, 5 anni di matrimonio. Siamo andati in ristorante, abbiamo mangiato lì e poi abbiamo preso quello lì per farci un giretto così, tanto per fare qualcosa, e abbiamo scelto questo Nautilus, ma e poi abbiamo preso un'altra volta un'altra imbarcazione dove facevano il pranzo a bordo, tutto quanto, ti facevano girare tutta la costa di Alghero, Bosa, eccetera eccetera, e siamo stati bene anche in quell'imbarcazione. Ci ha detto che praticamente era un vecchio peschericcio che allora hanno trasformato e gli hanno fatti sedili eccetera eccetera, e praticamente facevano, avevano fatto la pasta con la gran seola, praticamente con la capra marina, ma buonissima, guarda, una cosa fenomenale. Poi alla fine è avanzato un po' sotto, quella che c'era sotto, che era la più condita, ha detto c'è qualche altro che era buono, io l'ho mangiata tutta bella condita, poco era buono. Eh sì, già, le fanno quelle, anche adesso, quelle cose, quando fanno le escursioni, ci sono delle imbarcazioni che fanno escursioni, ti fanno vedere tutta la costa lì, ti portano verso Capocaccia, oppure anche dall'altra parte, e praticamente stai tutto il giorno, parti la mattina e stai tutto il giorno fuori, e ti fanno il pranzo e ti cucinano queste cose, spaghetti che, con polpa, come si chiama, con i ricci, capito, quelle cose lì per le battezze del posto, lo fanno per i turisti, ma anche per chi non le ha mai fatte quelle cose, ed è un locale, le fanno tuttora lì ad Alghero. Il Nautilus però non ce l'hanno più. No, non c'è più il Nautilus, era una cosa bella, perché sembravi dentro un sommergibile, perché scendevi le scalinate e tu scendevi giù nel fondo dell'imbarcazione ed eri praticamente immerso nel mare. Non l'ho mai provato, ma l'avevo visto, me lo ricordo, che era sempre lì al porto, immergiato. Poi è da un bel po' di anni adesso che ci manca. Sì, è vero, ma hanno tolto una cosa che era bella. A me piaceva, è piaciuto molto quando siamo andati. E ti dirò che aveva questi fari potentissimi che illuminavano tutto il fondo marino, si vedevano le orate che ti passavano a fianco, saraghi, di tutto, le gnacchere. Infatti ha detto, c'era Cicerone che parlava e ha detto, qua dobbiamo stare molto attenti perché il fondale praticamente risulta un po' più basso e rischiamo di toccare. Io subito sono salito sopra, ho detto, non si sa mai che tocca, si spacca sotto e il primo che annega sono io. Sì, belle cose, ma sicuramente quel Nautilus avrà avuto problemi di omologazione, di permessi, qualcosa del genere, che magari per quel motivo non l'avranno più usato, poi sarà andato dismesso, l'avranno rotamato, non lo so, perché è da un bel po' di anni che ci manca. Sì, è vero, ma potrebbero copiare, fare qualche cosa del genere, perché turismo ne caricava di brutto, e ti sto dicendo che era pieno, quando siamo andati noi era di notte ed era pieno, zeppo, c'era un bel di gente, era d'estate, perché era d'estate, però era una bella imbarcazione. E anche quel peschereccio che dice che avevano acquistato da uno di Porto Torres, praticamente l'hanno trasformato e l'hanno fatta a Sirili. C'era tutto quanto, c'era il